chi è Lucas Wildhaber? È il presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Egli afferma che è necessaria la riforma del meccanismo di controllo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, anche se questa non risolverà definitivamente il problema dell'eccessivo carico di lavoro che grava sulla Corte di Strasburgo. Lucas Wildhaber aggiunge che secondo lui la riforma prospettata non rimette in causa il diritto fondamentale di ricorso individuale. Infatti l'ultima riforma risale al 1998 e già solo nel 2003 sono pervenute oltre 38.000 richieste di ricorsi e non ci sono al momento segnali di inversione di tendenza. Il problema è che si prospetta che fra 2-3 anni si potrà avere circa 50.000 richieste di ricorso che la Corte sarà impossibilitata ad evadere ed è per questo che necessita una riforma il prima possibile, anche se già nel 2000 si aprì un dibattito sulla necessità di una nuova riforma. Ringraziamo la Press Unit del Consiglio d'Europa per la gentile concessione. Barbara Galeazzi, reporter associati per Amisnet Radio.